Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Franco Piantini, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Pierluigi Pardo, buongiorno, ho quattro domande per te, non tre. Vai. Non tre come Ligabue. Ligabue ne aveva tre. Sì, chi prende l'Inter? Però dove sei, mi porti? Il solito megalomane, prendi? Esagerato, e quindi nei quattro. Soprattutto, via. Perché? Perché? Allora, prima domanda, ti piace la nazionale multietnica ma con il veto per gli italiani all'estero? Il nostro famoso codice etico sarà in vigore anche nell'ultimo mese, quindi chi sbaglierà starà a casa. Allora? Mi sembra che ci sia del provincialismo nell'occuparsi di realtà che sono fuori dal nostro paese in generale, no? Cioè comunque alla fine se vai all'estero comunque un po' paghi, non c'è niente da fare. L'avevi già detto a proposito dei diamanti, eh? Avevi anticipato a proposito dei diamanti. Sì, ma anche Verratti secondo me se giocasse in Italia darebbe un'altra sensazione, capito? Certo. Allora, seconda domanda. Vai. Prandelli e il problema dei bad boys. Sono stufo di chi non regge la pressione. Ci auguriamo tutti di poter vedere più giocatori italiani in campo. Non dipende da noi, non dipende dalla federazione, ma dipende dalle scelte che fanno i club. Come la mettiamo con i bad boys? Bad boys, la discriminante è sempre il rapporto fra talento e indisciplina. Se il talento supera l'indisciplina, i bad boys giocano e magari vincono anche le partite. Quindi sta tutto a loro. È chiaro che se sei un bad boy devi dare qualcosa in più in campo per poter sopperire ai possibili problemi che puoi creare. Poi ci sono varie tipologie di bad boy, ma poi sicuro ne parliamo. Passiamo alla numero 3. Allora, domanda numero 3, stai attento perché questa è importante. Sì. Allora, quanto sei triste, ma dimmi la verità però, quanto sei triste per la decisione di Vandita di lasciare Twitter? Non scrivo niente particolare, solo c'è gente che scrive di tutto. Io non so se avete visto, ho meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Ma in questo momento sono un po' triste, perché devo dire che quest'ultima storia l'altro giorno mi è piaciuta, cioè Stamp Inter e tutto il post mi ha divertito, confesso. Io sono disperato. Vabbè, esageriamo, fa questa mia perversione, però è stato divertente. In generale, secondo me, è una scelta sana. Se posso consigliare un'altra cosa, no, non posso consigliare un'altra cosa, sono questioni loro. No, adesso lo fai. Vabbè, no, il concetto è a me, lo sai, non mi è piaciuta l'immagine, ma ne parlavo qui ieri. Non mi piace l'immagine dei ragazzini. Perché, oddio, in generale può essere anche una cosa bella. C'è un rapporto sano, può essere anche una cosa bella che la nuova fidanzata di papà va d'accordo con i bambini, nel senso, va bene, è meglio questa. Però qui mi sembra che sia proprio una presentazione, una sfida, e loro è come quando vai in televisione devi firmare la liberatoria, no? Firmi la liberatoria, che vuol dire ok, potete utilizzare queste immagini. Non mi sembra che i bambini qui abbiano firmato la liberatoria per dire fate come vi pare. No, a proposito delle nostre vite. Guarda, se vogliamo usare la parola giusta, è strumentalizzazione, è terrificante. Ma infatti anch'io è l'unica cosa che non sopporto, però non la sopporto così, in maniera così intensa, che diventa poi il centro di tutta la vicenda, forse. Comunque il comunicato che la signorina ha consegnato alle agenzie è: arrivi il momento più importante della mia vita, voglio pensare solo a questo e ai miei figli. Speriamo. Mettiamola così. Ultima domanda, sei pronto? Perché, perché il Milan vuole cacciare via Clarence Seedorf proprio ora che il campo sembrerebbe dire tutto il contrario? Qualcuno ha parlato e cominciamo con quel discorso lì, quindi molto antipatico. Non antipatico nei vostri confronti, antipatico certo. Perché vuol dire che dal nostro interno ne parliamo e questo non va bene. Guarda, non lo so perché lo vogliono cacciare, non so neanche perché l'abbiano preso, sinceramente. Sembra che dal punto di vista della carriera di Clarence Seedorf però non sia stata una grande, finirà così, non sarà stata sicuramente una grande idea, nel senso che un allenatore giovane, anche se aveva un carisma da calciatore di un certo tipo, ha anche il diritto di sbagliare. Qui lo dico, dal giorno in cui maturò quella decisione il Milan e Seedorf si prendevano un grande rischio, perché cominciavano questa avventura con una squadra che Seedorf non ha voluto, con dei problemi e anche ovviamente delle qualità e uno stato di forma che dipendeva dall'allenatore precedente, e quindi c'era un grandissimo rischio. Onestamente a me ad oggi Sedorf non mi è piaciuto, però... Non ti è piaciuto? Nemmeno ora. Che comunque no, è terzo in classifica. Sì, cioè, stavo dicendo esattamente... Sì. Presente il colpo a cerchio e l'altro la botte, mancava sì. La botte. Sì. Nel senso, non mi ha fatto impazzire, non c'è stato quell'effetto immaginifico che mi aspettavo, però è vero pure che insomma questa squadra non l'ha voluta lui, non l'ha scelta lui, la situazione di classifica comincia a essere interessante. Cioè, voglio dire, se l'hai preso, adesso non puoi cacciarlo, secondo me. E invece... Siccome l'hai preso, adesso non puoi cacciarlo. Questa è la mia idea. Esattamente. Poi, sicuramente, che nei sogni magari di Berlusconi, nella sua capacità, devo dire, spesso poi straordinaria negli anni, di toccare con mano e di saper captare, no, il talento delle persone, è un dato di fatto, insomma, della carriera di Berlusconi come presidente del Milan, magari ci si poteva aspettare qualcosa di più da Sedorf all'inizio, questo sì, questo onestamente poteva esserci. Sì, di tutti questi argomenti, adesso che ti ho fatto le domande, continueremo a parlare anche con gli ascoltatori, perché dobbiamo poi regalare le magliette, la maglietta giornaliera per il migliore in campo che decideremo noi, 800240024, e poi quell'altro regalo che vi spiegherò più tardi. Convocati. Si è parlato di una possibile esclusione di Montolivo all'inizio nella squadra titolare, è una cosa a cui hai pensato, un'ipotesi che hai preso in considerazione? Il fatto che stiamo parlando di una scelta che voi diciamo sapete, vuol dire che qualcuno ha parlato e cominciamo con quel discorso lì, quindi molto antipatico. Vabbè, sai, ognuno fa... il suo mestiere. Sì, no, non antipatico nei vostri confronti, no, antipatico certo. Perché vuol dire che dal nostro interno ne parliamo e questo non va bene. Noi dobbiamo pensare a stare zitti su queste cose. Io ci tengo moltissimo a questa, diciamo, forma etica di lavorare assieme, e anche se avessi scelto di lasciarlo fuori sarebbe stata una scelta forse con un pensiero dietro. Io Montolivo ho giocato quasi sempre, quindi non vedo quale potrebbe essere il problema. Forma etica di lavorare insieme, dice Clarence Sedorf. Allora, questa storia mi interessa un sacco e abbiamo convocato Franco Ordine, voce e volto e penna notissima. Ciao Franco. Eccomi qua. Tu mi devi spiegare adesso perché Berlusconi ha rimesso Galliani al centro del villaggio e sì. Sedorf verrà cacciato dal Tempio a prescindere. Allora, dunque, il fatto che Galliani sia stato rimesso al centro del villaggio mi sembra intanto che abbia procurato qualche bel vantaggio alla squadra, che abbia procurato qualche bel vantaggio allo stesso Sedorf, e poi che sia, come dire, il riconoscimento del fatto della capacità collaudata di questo dirigente di dirigere la squadra. Sì. Ora, il fatto che sia accaduto quello che è accaduto, che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che c'era l'idea da parte di Sedorf di lasciare fuori Montolivo, che qualcuno gli ha fatto cambiare idea e che quindi qualcuno gli abbia suggerito di evitare una cosa del genere, visto che si trattava comunque del capitano, del nazionale, e che poi tra l'altro questa scelta, diciamo, questo suggeritore è stato premiato perché poi è stato l'uomo decisivo per vincere la partita col Catania. Questo è un problema che attiene ormai a tutte le squadre, non c'è sì. Una squadra nella quale... Ma infatti Franco, mi sembra una circostanza questa, cioè non può essere questo il casus belli, no? Il chiaro. Problema non è questo, ragazzi, il problema non è la scelta di Tizio piuttosto che la scelta di Caio. Il problema vero è che al di là dei risultati e al di là del valore della persona, in questo caso Sedorf, ci sono metodi e criteri praticati da Sedorf che fanno un po' a cazzotti con le abitudini, le tradizioni e anche, diciamo, le necessità dell'ambiente. Quindi allenamenti spesso oltre che nell'orario spostati tutti al pomeriggio, ma soprattutto rallentati, inframmezzati da continue interruzioni, scelte che obiettivamente si possono anche un po' discutere, per esempio quella dei nazionali, Abate completamente ignorato, Tescilio che pure vorrebbe giocare a sinistra, che viene utilizzato soltanto a destra, e via di questo passo. Quindi questo è il punto, quindi stiamo parlando di valutazioni che attengono all'esercizio della professione, non a una fuga di notizie. Questo lo so, giro la considerazione a Pierluigi naturalmente, non piace quindi la sua visione del calcio, però voglio dire, questo mi pare strano, per uno, innanzitutto che non ha mai fatto l'allenatore, questo lo sapevi, da un lato, dall'altro lato che è stato lì per una vita calcistica, quindi Seedorf grosso modo lo conosci, quindi sai che cosa può portare, quale carisma può portare, ma anche quale, così vogliamo dire, presunzione nella gestione del lavoro, quali siano le sue idee. Ti sarai confrontato con lui o no, Pier? Sì, ma infatti c'è qualcosa che non torna, più di qualcosa, insomma, prendere Seedorf rispetto ad altre ipotesi, un traghettatore come Tassotti, ma devo dire anche un traghetto guidato dal comandante Inzaghi, dal signor Inzaghi. Sì. Ecco, rispetto a queste altre soluzioni, la scelta di prendere Seedorf sicuramente portava con sé dei margini di rischio superiori, ma anche, diciamo, inevitabilmente un'apertura di credito che deve essere un pochino più lunga. Ribadisco, se l'hai preso a metà gennaio perché eri sotto la tempesta e la grandinata, secondo me oggi non lo puoi mandare via, dopo l'investimento che hai fatto e dopo l'investitura che hai fatto. Era folle e troppo ottimistico pensare che arrivasse qui Capello o Hiddink o Ancelotti con 30 anni di esperienza o Mourinho. È chiaro che è un allenatore che si deve fare, si deve formare, ma se tu prendi Seedorf, lo prendi perché conosci la sua testa, la sua personalità. E la conosci, e quella la conosci, ma certamente. Quella lo conosci, non la puoi mettere in discussione per quello che gli inglesi direbbero alcune cose su cui devi fare fine tuning, no? Dei piccoli aggiustamenti. È chiaro che dovrà settarsi, dovrà tararsi con il tipo di lavoro nuovo che non conosce, ma se l'hai preso 3 mesi fa non lo puoi cacciare via, soprattutto in un momento come questo nel quale diciamo che la nottata è passata, perché insomma da questo punto di vista si dice spesso che i giocatori possono giocare a favore o contro l'allenatore, e i giocatori l'hanno confermato. Perché sì, nel momento più difficile, nelle due partite della verità, contro la Lazio e la Fiorentina, la squadra si è ritrovata. Poi Milan-Catania, ovvio, è stata una partita orrenda, la verità. Paradossalmente i risultati danno ragione, cioè non è arrivato Hiddink, Mourinho, non sono arrivati questi, non è arrivato Capello, però... Allora, se valutiamo Seedorf con i risultati, vediamo dove arriva alla fine. Secondo me arriva quinto e poi lo mandi via. No. Ma secondo me sì. Secondo te, Franco Ordine? No, dicevo questo, che non è che vogliamo mandarlo via adesso. Il ragionamento riguarda la prospettiva futura. Cioè, tu hai dato da gennaio a maggio, hai dato per 5 mesi la squadra in mano a uno che non aveva mai fatto l'allenatore. Pensando che la sua qualità, diciamo il suo talento calcistico innato, la sua intelligenza e la sua cifra umana fossero elementi sufficienti per consentirgli di guidare uno spogliatoio come quello del Milan, con le aspettative come quelle del Milan. Invece a mezza squadra contro. No, aspetta, lascia perdere adesso la mezza squadra contro, perché quello può essere in qualche caso anche sintomo di buona conduzione, se tu magari hai contro i pelandroni. Invece in questo caso il problema è complessivamente legato a la condizione fisica è stata migliorata, bisogna rispondere serenamente, sì, onestamente sì, è stata migliorata. La cifra tecnica di questa squadra è stata migliorata, sì, con il mercato di gennaio fatto da Gagliani. È cambiato anche lo schieramento tattico del Milan di Seedorf rispetto all'inizio? Decisamente sì, grazie appunto a qualche suggerimento che gli ha detto: guarda che è meglio giocare con 4-4-1-1, e così si gioca il Milan, soprattutto quando si difende. Ora, il rapporto con la squadra, tutto questo saranno elementi che saranno valutati a fine stagione, al di là dello stesso risultato, perché il risultato complessivo di oggi fa capire che poi questa squadra non era, tra virgolette, costruita male come qualcuno continuava a dire nei mesi precedenti in Natale. Sì. Era una squadra che non riusciva ad esprimersi, era una squadra che giocava male, era una squadra probabilmente fisicamente allenata male, ma non era costruita male. La valutazione a cui tu fai riferimento porterà all'allontanamento di Seedorf, perché questo ormai sembra l'unica ipotesi possibile, e all'arrivo, caro Pardo, del traghettatore di qui sopra, cioè Filippo Inzaghi, che guarda caso è il prescelto del signor Galliani, che è tornato al centro del villaggio. Ma infatti hai fatto benissimo a inquadrare, facendo un po' di sana dietrologia, quasi da salotti della politica, no? Da teatrini della politica, sembra questa storia. Perché alla fine l'unica spiegazione possibile di un tipo di scenario di questo genere, che ovviamente deve essere confermato, ma che in questo momento sembra molto probabile, è di carattere geopolitico. Bravissimo, perfetto, è questo è lì che volevo arrivare. Sinceramente, ribadisco, non ha fatto delle cose abbaglianti da dire che è un predestinato, non ha fatto 12 vittorie consecutive, però se tu lo valuti soprattutto oggi, dopo queste 4 vittorie consecutive, per quello che ha fatto non lo puoi andare via, considerato che l'hai preso 4 mesi fa. Quindi vuol dire che se lo mandi via è perché evidentemente c'è stato un design nuovo dei poteri e delle centralità all'interno di casa Milan. Questa mi sembra la notizia. La notizia più importante, no? Anche perché in questo spaccato di campionato Seedorf ha fatto meglio, e lo dicono i numeri, di Benitez e di Montella, di tutti gli altri che non siano Conte e Garcia. E voglio chiudere con franco ordine con questo domandone di carattere geopolitico: strano come Berlusconi accetti di passare la mano così facilmente sul suo prescelto. Ma infatti, quelli che dicono che è tutta un'operazione italiana si sbagliano in maniera clamorosa. Sì, eh? Perché certo, ma perché voi pensate che queste scelte possano essere prese alle spalle del Presidente, senza il suo consenso, senza il suo convinto consenso, dopo che si era esposto in prima persona, designando un allenatore che non convinceva l'amministratore delegato? Se tutto questo è accaduto, se tutto questo accadrà, come mi sembra assolutamente probabile che accada, è perché anche il Presidente evidentemente ha maturato la convinzione che l'uomo, nonostante le qualità, nonostante l'intelligenza, nonostante la cifra umana e la conoscenza del calcio, non ha i requisiti forse per condurre un gruppo. E d'altra parte, il fatto che non sempre i grandi calciatori siano stati capaci di condurre lo spogliatoio è documentato dalla storia calcistica italiana, europea e mondiale. Grazie Franco. Saluti. Grazie Franco Ordine. Grazie Franco Ordine. Pier, ci sentiamo subito dopo la borsa e ovviamente cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800240024. Non voglio guardare troppo avanti, vedremo quel che succederà. Questo è un ambiente che mi ha dato tanto, cui sono molto legato, vedo l'affetto che c'è da parte di tutti, per cui sto molto bene. Convocati. Sono anche notizie relative ai due allenatori che hanno fatto meglio di Seedorf. La prima riguarda Conte, perché Marotta ha detto di lui: la Juventus è contentissima e soddisfatta in modo totale del lavoro svolto da Conte. Però sul rinnovo abbiamo deciso che ne parleremo dopo che avremo ottenuto qualcosa di importante, lo scudetto ed eventualmente anche l'Europa League. Quindi calma e gesso. We are going to sign, but we can wait. Dobbiamo aspettare, vediamo di vincere. No, ovviamente Conte sarà allenatore della Juventus per il futuro. Garcia, allora, dice invece che a Roma sta bene, però anche in questo caso si parlerà del rinnovo alla fine dei giochi. Poi ho parlato di destro, dicendo: tutte le regole che portano a interpretazione sono difficili da applicare. La gente può capire che ci sono due pesi e due misure, ognuno fa come vuole. Ci sono delle cose che i giocatori non devono fare. A volte mettersi in un quadro troppo stretto può diventare un problema, ma certamente non è il mio problema. Vabbè, morale, attenti a come si deciderà sul caso destro, perché sennò potremo fare un po' di casino. Vuoi sentire Garcia che ci crede ancora, Franco Piantanida? Ma certamente, eccolo qui. Forse, come dite voi, finché c'è vita c'è speranza. È sicuro che quando passa sempre una giornata di più e che lo scarto non cambia, è sempre più difficile. Sembra che non può succedere più, e forse è a questo momento che può succedere. Noi non dobbiamo mollare. È vero che noi giochiamo a Firenze contro la Fiorentina, che è veramente una bella squadra. Sembra molto difficile questa partita, e lo è, e sembra facile quella della Juve, ma a volte i risultati, ma non sappiamo che può succedere veramente al 100%. Vabbè, dichiarazioni da contratto e da copione, poi ovvio che andrà avanti a dire questo fino al giorno del pallottoliere, no? O della calcolatrice, fino al giorno dell'impossibilità matematica della Roma di superare la Juventus, giorno che io credo arriverà abbastanza presto. Gianluca Bari, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, dimmi. Ciao, io volevo fare due domande a te, signor Genta, e a Pierluigi Pardo. Siamo qua. Ossia, una che riguarda il Milan, voglio dire che sono d'accordo con Pardo sul fatto, insomma, che cambiare Seedorf alla luce poi dei risultati che sta ottenendo per prendere Inzaghi, che comunque è un potenziale buon allenatore, mi sembra alquanto illogica come scelta. Sì. E la seconda domanda che mi interessa molto più da vicino è quella che vorrei fare a voi riguardo a un eventuale playoff del Bari. Sì. Considerato che qui in città non si parla di altro, c'è un fermento per la partita domani con Latina, si parla di circa 30.000 persone, vengono venduti 5.000 biglietti al giorno, per cui questo entusiasmo che si è creato, che eventualmente possa poi riflettersi sull'asta che è prevista per il giorno dopo, sia venerdì. Volevo sapere cosa ne pensavate. Noi che siamo stati a Bari, caro Pierluigi, lo sappiamo. La Bari sta ricominciando ad attirare un sacco di attenzioni. Sarà bellissima perché è una città importante ed è stata una città che ha vissuto senza passione, senza entusiasmo. Il confronto statistico con le presenze prima della fine del regno precedente, perché qui proprio di regno si deve parlare, è clamoroso, no? L'indice 10-1 praticamente, si è passati dai 2.000, 3.000 ai 20.000, 30.000, poi ci sono anche i risultati in questa fase, quindi è veramente la primavera in fiore. Sì. Venerdì c'è questa giornata importantissima, ovviamente la seguiremo, e ci sono anche molte cose divertenti e ironiche che arrivano sui social network su questa ritrovata passione di Bari, per cui insomma, io credo che ci sia. Poi sai cosa facciamo? Sai cosa facciamo io e te? Mettiamo in giro la voce, non dirlo a nessuno, ma mettiamo in giro la voce che poi torna Cassano. Cioè, non dirlo a nessuno, però. Va bene, è ufficiale, è fatta. No, a parte tutto, sarebbe una cosa romantica. Ma assolutamente. Sia presto, ovviamente. Insomma, anche ma anche non così, voglio dire, assurda. No? Se tra mi dici, tre anni. O fra due l'anno prossimo, torna in Serie A, come vai a saperlo. Poi, insomma, torna sulla grande platea. È fatta. Piero Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo premettere, non sono un appassionato di calcio e tantomeno quindi competente. Volevo solo chiederle se la poca fortuna delle squadre italiane nelle coppe europee non dipenda dallo scarso agonismo che c'è nel nostro campionato, perché le squadre di punta avranno in un torneo non più di 4-5 partite difficili, così non hanno abitudine a contesti difficili come possono essere gli scontri europei. Grazie. Grazie a lei, Piero. Io parlerei più che di scarso agonismo, di scarsa qualità, no, Pierluigi? Sì, se vogliamo parlare di qualcosa di scarso. Secondo me è interessante, intrigante, però secondo me non è verissimo. Nel senso che poi se guardiamo ad esempio la Spagna, in Spagna c'è una distanza siderale, quest'anno sono 3 e non 2, ma insomma in generale c'è una distanza siderale poi con il quarto, quinto posto. Il Barcellona sta vivendo una stagione fallimentare, ha fatto 5 pareggi e 3 sconfitte su 33 partite. Ma il Monaco ha vinto il campionato a Natale. Appunto. Cioè, in Italia giustamente la Roma si lamenta perché ha 79 punti, si lamenta col destino, dico, perché ha 79 punti ed è seconda. In Spagna il Barcellona con 78 punti è terzo. Cioè, sì. Mi sembra molto simile come tipo di discorso, con la differenza che le squadre sono 3 e non 2. Ma insomma, mi sembra che la forbice sia molto allargata. In Inghilterra sicuramente sì. In Inghilterra quest'anno ha una dinamica da campionato molto più incerto, con tante squadre che sono in grado di mettere in difficoltà anche le primissime. Ma in Italia non mi sembra tanto questo il discorso. Mi sembra proprio un fatto di qualità e di intensità. Sì. Secondo me noi siamo stati per tanti anni migliori, perché avevamo tanti soldi, perché dal punto di vista tattico secondo me rimaniamo i migliori, non a caso i 4 allenatori che fanno le semifinali di Champions League tutti hanno un legame con l'Italia, o perché ci hanno allenato, o perché ci sono nati, o perché ci hanno giocato. Guardiola, sì. Mourinho, Simeone, Ancelotti. Per cui insomma, sì. Continuiamo a esportare cultura calcistica a ogni livello. ed eravamo i numeri uno. Poi secondo me abbiamo perso questa nostra forza, abbiamo continuato a pensare di poter... Ma sai cosa abbiamo perso? Lo dicevo ieri, secondo me abbiamo perso la classe media, abbiamo perso la borghesia. Ieri mi sono buttato in questa divagazione socio-economica, no? Cioè quello che fa la forza di una società, che cos'è la classe media, la borghesia, quando una società è in crisi, quando sparisce la borghesia, che è la spina dorsale del paese. Insomma, ho detto ste robe qui, ero impazzito, no, però realisticamente nel calcio italiano mai è stato così evidente la mancanza della classe media, cioè di una classe media consistente. Devo dire che anche l'aristocrazia, cioè se tu pensi che la Juve, che è una squadra che in Italia domina, che ci piaccia o no, sicuramente è stata sfortunata, l'abbiamo commentato mille volte, però sì, comunque è uscita dalla prima fase della Champions League, e questo ti fa capire che se la borghesia sta male, anche l'aristocrazia non sta benissimo, insomma. E detto questo, ci sono fasi, no, cicli storici per cui risorgeremo. La cosa però che mi sembra oggettiva, come viene sempre in mente Bergnazzo, e poi alla fine oggi, che ci piaccia a noi, i fatturati contano tantissimo, e finché noi non riusciremo a produrre reddito, finché non avremo una classe dirigente calcistica capace non soltanto di spartirsi giustamente i soldi e i diritti televisivi, ma di costruire valore, costruendo asset, come dicono quelli bravi, come costruendo valore. Ma sai, il problema è che non l'abbiamo mai avuto, no? Perché c'erano i magnati, c'erano i magnati che avevano un sacco di quattrini, staccavano l'assegno, Moratti, Berlusconi, Agnelli, eccetera, staccavano l'assegno e si andava via così. Poi Bellinazzo, che è il nostro guru, ci dice che la Roma, su base regolare, dopo l'investimento, chiaramente anche in private, investimento finanziato in parte dai privati nei primi anni per lo stadio, poi avrà 30-40 milioni l'anno di introiti dagli stadi. Gli stadi sono una cosa fondamentale, la Juve ne è la dimostrazione. E poi l'incertezza che c'è stata nel calendario, difficoltà di vendere i nostri diritti all'estero è nata anche per questo. Dobbiamo fare squadra tutti insieme, dobbiamo fare sistema, è un tema strettamente economico. Se torniamo a fare sistema, poi arriveranno i fatturati, anche perché i marchi storici comunque ce li abbiamo, nel senso che le tre grandi del nord hanno tre marchi che sono straordinari, tre società che hanno dominato in Europa molto più del Chelsea e dell'Atletico Madrid, tanto per fare due esempi, certo. No, cioè sono proprio l'aristocrazia. Roma e Napoli hanno chiaramente un bacino d'utenza gigantesco, poi c'è sono Palermo, anche altre realtà importanti, la Lazio, il Torino, il Palermo, Fiorentina, non le cito tutte perché altrimenti, cioè comunque abbiamo delle società storiche che hanno vinto e che hanno dei bacini d'utenza importanti. Dobbiamo però cioè qui è proprio un fatto di business, è un fatto economico, ma non di business in senso negativo, è un fatto di marketing, ma di capire come strutturarsi, di strutturarsi in maniera moderna. Certo. Di strutturarsi in maniera moderna, perché una struttura in chiave moderna le squadre italiane non ce l'hanno mai avuto, te l'ho detto, dipendevano dai paperoni, dai magnati che facevano di tasca loro, ma un discorso manageriale diverso in Italia non c'è mai stato, e quindi mi sembra che Juventus e Roma da questo punto di vista non siano solo prime e seconde in classifica, ma siano anche all'avanguardia in questo tipo di discorso. Andrea da Milano, e poi salutiamo Pierluigi Pardo. Andrea, dica. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Senta, a me sembra che la questione di Seedorf al Milan sia legata a una lotta interna tra Galliani e Barbara Berlusconi, fondamentalmente. C'era Allegri che era tenuto da Galliani ed è stato mandato via, e Barbara Berlusconi probabilmente invece puntava più su Seedorf. Adesso che Galliani ritorna un po' al punto di riferimento, come una sorta di piccola vendetta, vuole mandare via Seedorf. Quindi ha vinto Galliani, il problema è che quello che sta al piano di sopra, che cosa ne pensa? Cioè, voglio dire, gli va bene che vinca Galliani, perché la chiave è questa. Anch'io, magari un po' semplicistica, però sarei tentato di dare questa lettura, Pierluigi. Beh, la lettura forse un po' semplicistica, forse un po' così tranchant, ma è la verità, insomma, di quello che abbiamo capito. Poi io ribadisco, lo dico sempre, perché penso che sia possibile trovare una coabitazione, cioè che comunque per me non è in assoluto impossibile che Barbara Berlusconi e Galliani possano lavorare insieme e andare d'accordo, a patto che ci siano competenze molto diverse, molto distinte, su aree distinte. Discorso che abbiamo fatto un minuto fa, che le società di calcio devono pensare a 360 gradi allo sviluppo del brand, al merchandising, a tutto ciò che può portare valore e che può portare fidelizzazione nel mondo. E il mercato del mondo oggi non è la città di Milano o il nord Italia o l'Italia, il mercato del mondo oggi è ovunque. Perché oggi ci sono dei bambini che nascono dall'altra parte del mondo, soprattutto nei paesi che non hanno i grandi campionati europei, che guardano il calcio internazionale, gli arriva il prodotto e diventano tifosi del Milan, anche se stanno a Bangkok o a Miami o a Salvador de Bahia. Questa è la verità. E un giorno compreranno la maglietta e magari un giorno verranno anche allo stadio e compreranno i panini, cioè, questa sì, è la logica che seguono gli sport professionistici in giro per il mondo. Quindi secondo me il discorso di Barbara Berlusconi è molto interessante, tutti gli investimenti di branding vanno tutti in una direzione giusta, a patto però che questi due poi non litighino sulle competenze. Allora, se c'è uno che fa la parte tecnica, fa la parte tecnica, e mi sembra che possa essere più Galliani, e l'altra persona può fare un lavoro fondamentale, indispensabile, che può essere un grande valore aggiunto su tutto il resto. Sicuro. E se si trova un minimo di convivenza civile, che pare ci sia in questo momento, può essere addirittura una ricchezza, può essere addirittura un'opportunità. Secondo me è abbastanza tregua armata, però questo vivendo lo scopriremo certamente. Ciao Pier, sentiamo domani. Dai, saluti a tutti. Ciao. Tutti convocati. Allora, mentre torno a convocarvi tutti quanti, 800 24 00 24, ne approfitto per ricordare che stiamo promuovendo, distribuendo il nuovo brand, che è assolutamente cool, quello di tutti convocati, perché vogliamo vestirvi con le nostre magliette speciali. Ne regaliamo una al giorno al migliore in campo, cioè all'ascoltatore che sarà valutato come il più interessante, simpatico, eccetera eccetera. Quindi una maglietta al giorno per il migliore in campo. E poi c'è un'altra iniziativa, ma trovate in questo caso tutto sul sito www.radio24.it, perché avremo una maglietta speciale con la firma di un grande campione, e la possibilità di essere voi stessi commentatori per un giorno, ritirandola se ne avete voglia qui a Radio 24, per servirvi qui in questo studio con me, con Pierluigi Pardo, per parlare di sport, di tutto quello che volete. Come si vince questo premio straordinario? Come si vince? Allora, dovete inviarci un file MP3 della durata di non più di un minuto, quindi un tempo radiofonico, con il vostro commento su un fatto della settimana sportiva. Ovviamente il fatto di questa settimana sportiva è quasi un po' brasato, è quello di Vandana Riccardi, eccetera, quella strana domenica di Marassi che abbiamo vissuto. Però sono molto curioso di ascoltarvi e poi di invitarvi. Allora, abbiamo parlato fin qui della Milano calcistica, che sta faticosamente rincorrendo quinto, sesto posto, piazzamenti per l'Europa minore, l'Europa League, che si scorna sui tweet, sulle vicende di corna di Riccardi Vandanara, su Galliani che torna al centro del villaggio, Silura Seder, insomma tutte queste beghe per la Milano del pallone, mentre la Milano del basket sta volando. Oggi comincia la serie dei playoff di Eurolega con il Maccabi Tel Aviv. Milano ha il fattore campo dalla sua, lo ricordo, in questa serie a meno delle 5 avrà il fattore campo dalla sua, perché le Final Four di Eurolega, della Coppa dei Campioni del basket, tanto per essere più chiari, si svolgerà al Forum. Questo cosa vuol dire? Ci sono due conti: se Milano vince sempre in casa diventa campione d'Europa, ma questo lo diciamo assolutamente sottovoce mentre sentiamo Luca Banchi, il coach di Milano. Milano è qui per la passione che ha espresso fino ad oggi. E Milano è qui con la volontà di poter riproporre quanto fino ad oggi è riuscita a fare per meritare un palcoscenico, un'opportunità come questa. Essere uniti è il primo messaggio che dobbiamo dare alla squadra, perché le difficoltà non mancheranno, a maggior ragione adesso, a maggior ragione contro questa tipologia di avversari. Siamo un fronte unico, combattiamo con grande determinazione, con consapevolezza delle nostre possibilità, delle nostre potenzialità. Allora, questo Luca Banchi, allenatore, lo ricordiamo, campione d'Italia in carica. Questo che ora sentirete è Luca Chiabotti, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Sai qual è secondo me la vera notizia, la vera cosa grande? È quello che si respira qua fuori, cioè un'attesa, che una febbre, una emozione che noi ci ricordiamo perché abbiamo qualche anno, ma molti di quelli che adesso vanno al liceo non si ricordano o non hanno mai vissuto. Certamente, con la cosa ancora più importante è che si dice sempre che Milano aspetta il grande avvenimento per scaldarsi e per andare al Forum o seguire uno sport che non sia il calcio. Qui grandi avvenimenti si stanno susseguendo, perché potrebbe essere il terzo o il quarto tutto esaurito al forum di fila, cosa che non c'è mai stato nella storia della pallacanestro a Milano. E quindi non è soltanto andiamo a vedere il playoff perché è la moda, come è successo in qualche finale scudetto, sì, che si riempiva soltanto all'ultimo atto per anche un po' per farsi vedere perché era di moda. Qui c'è qualcosa di un po' più prezioso, un po' più profondo, e credo che sia il primo grande merito della squadra di quest'anno. Ma secondo te, Luca, a creare questa chimica, questa magia che prescinde quasi dall'importanza della sfida che sta per cominciare oggi, che cosa è stato? Cioè, quando Milano, c'è un momento in cui Milano si è rinnamorata del basket o si è innamorata di questa squadra? Ma come sempre ci sono... O dipende solo dai risultati? No, dai risultati no, anche se aiutano, però io faccio sempre questo paragone perché la gente ha la memoria corta, no? Siamo a una striscia di vittorie, un periodo molto positivo di vittorie consecutive, 15, ma nessuno si ricorda che 2 anni fa la squadra con Scariolo di Milano, dopo la Coppa Italia, ne ha vinte altrettante, cioè è stato... fece un'entrata trionfale nei playoff con tipo 22 vittorie su 24 partite, arrivando alla finale con Siena. Per cui, voglio dire, il risultato, volendo, c'è già stato, e neanche senza scomodare gli anni di Peterson. Ecco, questa è una squadra che sicuramente trasmette di più, è una squadra che ha trovato delle persone con le quali la gente si immedesima. Il caso di Cerella è clamoroso, ma questo amore per uno della panchina è una cosa che in fondo tutto sommato dà anche il senso della profondità di certe, di certe cose. Poi ci sono tanti fatti, il calcio che non sta andando così bene, una politica della società sui biglietti che gli è stata imposta dall'Eurolega, ma che ha avuto un successo straordinario, enorme, ben più grande di quello che era la lezione che gli esperti di NBA possono aver dato alla società. C'è tutta una serie di considerazioni, in quale ovviamente ci sono anche risultati, e poi il fatto che a Milano gioca bene. Milano così non ha mai giocato così bene, soprattutto in casa, e quindi è bella andarla a vedere, c'è poco da fare. Non è solo moda. Non è solo moda. È anche moda, e questo ci sta, ma non è solo moda. Luca, ne parliamo a strada facendo, Speriamo che sia lunghissima questa strada. Grazie. O cortissima in un altro senso. Questa strada che porta da qui a chissà dove, non mi riferivo solo a questa serie, Grazie Luca, ti abbraccio. Arrivederci, ciao. Grazie Luca Chiabotti, 800240024, giusto per anticipare il menù della seconda ora. Proprio dov'è la mia canzone 2 ore insieme? Dov'è la mia canzone 2 ore insieme? Concorso ricordato. Adesso mi merito la canzone, dopo me la metti, Franco Piantanida. Benissimo. Menù per le prossime 2 ore, ripartiremo dal discorso da cui abbiamo iniziato, cioè Prandelli, la nazionale multietnica, il codice etico, i Bad Boys e i 18 già sicuri andare in Brasile. E Libero che ha fatto al nostro CT, ha detto lui, un mazzo così. Sarà vero? Ne parliamo dopo. Qualcuno ha parlato e cominciamo con quel discorso lì, quindi molto antipatico. Non antipatico nei vostri confronti, antipatico perché vuol dire che dal nostro interno ne parliamo, e questo non va bene. A Domenicali sono mancati purtroppo i risultati, purtroppo questa è la legge dello sport e la sua decisione da rispettare, perché ha anteposto gli interessi dell'azienda a quelli suoi personali, e le dimissioni in Italia sono una merce molto rara. Il nostro famoso codice etico sarà in vigore anche nell'ultimo mese, quindi chi sbaglierà starà a casa. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Bravi, grazie. Noi come squadra cercheremo di regalare un'emozione forse magari meno forte, ma un po' più, diciamo, continua, perché il mondiale durerà per un po', ci auguriamo di arrivare fino alla fine. Il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più, bella. parlare. Studio, ecco, della canzone, l'emozione e la forza con la quale vengono interpretate le parole con l'espressione calcistica nel suo massimo, cioè quando c'è una parata, un contrasto, un gol, credo che sia veramente emozionante. In fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande. Adesso la domandona è se vi piace o no la canzone che ci accompagnerà all'estate dei mondiali, la canzone che accompagnerà l'Italia verso il mondiale, questo pezzo di Negramaro che è l'inno della spedizione azzurra in Brasil. Vedo Filippo Aureggi in regia che ha già le lacrime agli occhi e Franco Piantanida, autore di questo programma, anche io sto provando a trattenere qualche lacrimuccia. Va bene, Leonardo da Bari, le piace? Mi piace, poi da pugliese dico chi meglio di Negramaro. Beh, questo Sava Sandir, per dirlo in inglese Sava Sandir. Esattamente. Grazie per la possibilità, prima grazie di tutto, lei, di dire la mia, e complimenti per la trasmissione. Volevo fare solo una considerazione e conoscere il suo parere. Fatta la premessa che il pesce puzza sempre dalla testa. Sì. E fatta la premessa veloce che nell'arco di un campionato i valori tecnici di una squadra e dei singoli emergono sempre, tuttavia per quanto riguarda le due milanesi, io noto, guardando le partite la domenica in TV, che è la società, è la dirigenza che manca alle due squadre. Non li vedo più allo stadio, vedo la Juve, guarda caso prima in classifica, la Roma, il Napoli, ma la stessa Fiorentina, il Parma, la dirigenza è sempre lì, presente, è vicino alla squadra. Beh, aspetti, però per dirigenza cosa si intende? Cioè Galliani e Barbara Berlusconi sono lì? No. Sì, a prescindere da loro due, è quello che sa, i piani alti, dicevamo prima, no? Ah, lei si riferisce a Berlusconi da un lato e a Toir dall'altro. Toir, no? Dall'altro. Esattamente. No, Toir ormai ha cominciato a frequentare spesso San Siro, non con grandissimi risultati personali, sì, perché quando va lui l'Inter non è stata brillantissima, salvo in un paio di occasioni, ovviamente c'è stato il derby e poi altro paio di vittorie, poi il resto sangue abbastanza amaro per poca roba. Il nuovo proprietario, sì, poca roba. No, più che altro, insomma, quanto dice lei è interessante, devo dire. Non si vede magari più unità di intenti, anche il linguaggio espressivo, il body language, come dicono gli inglesi, non è più quello di totale unità di intenti. Più che altro in alcune occasioni da entrambe le parti e su fronti completamente diversi, una certa latitanza della dirigenza si è notata. È inutile usare dire di parole, lei sa a cosa mi riferisco. Innanzitutto questa lunga querella tra Galliani e Valerio Rosconi da un lato, con varie puntate, vario punteggio, adesso è in vantaggio 2-1 Galliani sulla fronte allenatori, ma poi ci sono anche altre storie da un lato, dall'altro lato la difficoltà di gestire situazioni difficili come l'ultima, quella che ben conosciamo, di cui abbiamo parlato tutta la settimana sul fronte nell'azzurro, perché la domanda che anche Fabio Monte ad esempio oggi si fa al Corriere della Sera è: ma questi ci sono o no? Ma non riescono a gestire un caso tra che vede protagonista un ragazzetto e una signora in maniera un po' più così semplice rispetto a tutto il casino che è venuto fuori, ed è una domanda assolutamente legittima. Allora, adesso vorrei però tornare, visto assodato che vi piace l'inno dei Negramaro, la canzone Negramaro, che 18 giocatori andranno ai mondiali, già li conosciamo, aspettiamo di conoscere gli altri. Ebbene, ieri è uscita questa intervista su Libero, firmata da Fabrizio Biasin, che poi Prandelli ha anche commentato. Stamattina è uscita un'intervista su Libero tua, nella quale si sono toccati alcuni temi, ti hanno anche un po' punzecchiato, siccome un po'. punzecchiato, insomma. Anche di più, dice Prandelli, anche di più, più di un punzecchiamento. L'autore di queste punture di spillo è Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, grande intervista innanzitutto. Devo dirti che io non sono un prandelliano, però al 97% sono d'accordo col CT. A partire dalle prime domande, quelle relative ai guadagni, perché... è giusto che guadagni dei bei soldi, in fondo, come sarà tecnico della nazionale, che faccia degli spot, che insomma sia libero di trattare anche contratti al rialzo, perché non è semplicemente un manager pubblico, ma è uno inserito in logiche di mercato diverse, che sono quelle del libero mercato del calcio. Guarda, ti dico la verità, io sono andato dal CT un po' prevenuto, cioè avevo la mia idea sulla cosa, poi in realtà chiacchierando con lui devo dire che è stato piuttosto convincente. Effettivamente quello che dici tu è condivisibile. Restano dei punti legati al fatto che tante volte certi stipendi, certi ingaggi, uno se li deve anche meritare. Sì. Non che Prandelli non abbia ottenuto dei risultati, anzi, ci mancherebbe altro. Però sai, firmare un contratto di rinnovo 2 mesi prima del mondiale, non sapendo come possa andare questo mondiale, diciamo che fa un po' pensare. Però effettivamente ti dico la verità, mi sono fatto questa lunga chiacchierata col CT, sì, e mi ha convinto. Sì, beh, convinto. Se andiamo, bisognerebbe anche andare a parlare con Capello e con i dirigenti della Russia, che gli ne danno non 10 ma 8 volte tanto, vediamo cosa fa. Per parlare di quello che succede in Cina, parlare di quello che succede in Cina, eccetera, eccetera. Insomma, Prandelli legittimamente dice: anzi, io spero di ottenerne anche di più, perché tutto sommato sono uno dei CT a livello europeo che guadagna di meno. È ovvio che insomma i professionisti sono abituati a valutare il loro peso specifico anche sulla base di quanto sta scritto sui loro contratti. Mi è piaciuta anche la sua risposta sugli spot e le sponsorizzazioni. Cioè, lui dice: se decidono di fare 50 spot, io li faccio anche tutti 50, certo, se posso. Certo. No, ma infatti, guarda, mi è piaciuto molto in queste risposte, nella tua intervista, perché io tante volte ho detto: Prandelli mi sembra un po' troppo così, l'unica parola che mi viene è democristiano, nell'atteggiamento, no? Mentre in questo caso ha detto le cose come sono. È giusto anche che... Io propendo anche per la chiamata alle armi di tutti i giocatori eleggibili, perché io non voglio più usare, almeno personalmente non uso più il concetto di nascita, ius soli, eccetera. Io parlo di eleggibilità. Giusto che lui chiami tutti quelli che sono eleggibili per la nazionale. Ma questo sicuramente. Lui ha fatto questa 2 giorni di non chiamiamolo staff, chiamiamoli esami, e io credo che abbia fatto delle scelte interessanti, non so fino a che punto funzionali al mondiale, però interessanti. Cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente, gli ho chiesto: ma perché portare un ragazzo che gioca in Serie B nel Crotone? Capisco avere ampie vedute, però che senso ha 2 mesi dal mondiale? Lui mi dice: guarda, due anni fa convocai Verratti e la gente mi dice: ma chi è questo Verratti? E Verratti adesso è un giocatore che fa parte del gruppo della nazionale, nel senso che lui preferisce lavorare per il presente, ma anche per quello che sarà il certo futuro in nazionale. Certo, questo è assolutamente legittimo, così come io condivido il discorso: un mondiale, insomma, per un mondiale bisogna valutare anche lo stato attuale di condizione, anche se uno è stato qui degli anni, non è che matura un diritto divino di giocare il campionato del mondo, bisogna guardare anche lo stato di forma attuale, soprattutto in Brasile serviranno giocatori molto pronti dal punto di vista atletico. L'unica cosa, l'unico punto che non condivido e che non capisco, non so se tu mi puoi aiutare, è questa chiusura, questo ostracismo nei confronti di chi gioca all'estero, perché Verratti è l'esempio più classico, cioè viene chiamato, è vero che ha farfugliato un po' sulla domanda relativa alla convocazione di Verratti per il mondiale, è vero che non era così convinto, che non è stato... Guarda, così deciso la risposta. Siamo rimasti 10 minuti sulla... 10 minuti, tanta roba. Sulla questione Verratti, perché effettivamente io gli ho detto: mister, la gente, non dico furor di popolo, non siamo ai livelli di Baggio qualche anno fa, piuttosto che... Però si chiede perché questo Verratti venga tenuto in considerazione, sì, ma non così tanto. E lui, ci devo dire, che non si è nascosto per niente. Cioè, mi ha dato una risposta molto chiara. Lui mi ha detto che si aspettava da Verratti che prendesse in considerazione qualcosa di più del suo essere, del suo vivere questa condizione da vice Pirlo. Tant'è che l'ha provato in qualche amichevole in ruoli diversi da quelli di Pirlo. Solo che poi mi ha detto, durante tutta la stagione lui a Parigi si è proposto ancora una volta tutto l'anno nel ruolo di Pirlo, a parte in queste ultime partite. Sarà anche perché è bravo in quel ruolo lì, o no? Assolutamente sì, però lui dice, io non posso sacrificare uno dei 23 convocati per un doppione. Se non si facesse male Pirlo, e se Pirlo non si fa male io cosa ho portato, un giocatore per nulla? Cioè questo non me l'ha detto, questo l'ho capito io, però diciamo che c'è una sorta di fastidio, chiamiamolo così, nei confronti di questo giocatore, che secondo lui è talentuosissimo, tant'è che l'ha convocato e sempre comunque se l'è portato fino adesso, e però si aspettava probabilmente da lui qualcosa di più. Diciamo che forse ha toppato nel parallelo con, cioè nella risposta su Bernardeschi, facendo il paragone con Verratti. No, guardate, Verratti l'ho portato che non conosceva nessuno, ma adesso Verratti, che adesso che lo conosciamo tutti, in dosta, perché non esiste che stia a casa. Facendo quattro calcoli sui centrocampisti, e effettivamente adesso restano pochi posti a disposizione, ci sono alcuni posti blindati. Per esempio su De Rossi mi ha detto, è stato molto chiaro, io gli ho fatto una domanda sul codice etico legato anche a De Rossi. De Rossi ogni tanto casca in queste cose che non fanno proprio... E lui ti ha risposto, gli altri stiano attenti, De Rossi sono certo che non lo fa più. Su De Rossi mi ha detto che ci mette lui la faccia e dice, garantisco io per De Rossi. Per cui capisci che è vero che ci sono dei regolamenti, ma è anche vero che poi c'è qui le scelte che fa a prescindere, secondo me, da certe ma come è giusto che sia, dai, non estremizziamo sto discorso, tant'è che io uno come destro non rinuncerei, o quantomeno ci penserei molto bene prima di rinunciare a un giocatore come destro in questo momento, per il valore assoluto, per le caratteristiche, per il fatto che e uscirà da questo campionato, uscirà da questa squalifica e poi giocherà spiccioli di stagione, comunque da giocatore on fire quale è stato fino a quel cazzotto, quella sberla eccetera. No, piuttosto non capisco questo ostracismo di Prandelli, che apre a tutti i convocabili, a tutti gli eleggibili di nascita argentina, brasiliana, di qualunque provenienza, e chiude invece nei confronti di giocatori italiani che giocano all'estero. Verratti ovviamente è il caso più eclatante, ma prima parlavo di Diamanti con Pierluigi Pardo, che è stato un giocatore praticamente sempre presente nella gestione Prandelli. Assolutamente sì, anzi per molti è uno dei suoi prediletti, appunto. Poi bisogna anche dire che Diamanti ha fatto una scelta personale anche condivisibile, cioè in senso, sono verso la fine della mia carriera, però sapeva Diamanti di assumersi un rischio. Adesso io non so se Diamanti rientrerà nei 23, so che si è messo da solo in difficoltà, questa è una cosa. Un'altra, perché io per esempio gli ho fatto anche altre domande che poi non sono riuscito a far rientrare in intervista, però per esempio c'è un giocatore che si chiama Donati, che quest'anno gioca nell'Everkusen, quindi in Bundesliga, quindi in un campionato importante, ha giocato da titolare, ha fatto la Champions, e io credo che nel ruolo di Donati non ci siano tante alternative nella nazionale italiana, eppure non è mai stato preso in considerazione. Lui mi ha detto che ha fatto tutto il percorso dell'Under 21, però secondo lui quest'anno non si è espresso così come voleva, nel senso, tiene a precisare Prandelli che lui guarda tutti i giocatori azzurri, anche quelli che giocano all'estero, poi però anche lui, giustamente, ci mancherebbe altro, fa le sue scelte. Sì, anche io trovo giusto anche l'idea di portarsi dietro le famiglie per evitare tentazioni. Sappiamo che in Brasile le tentazioni saranno continue. Tabarez, leggevo oggi, ha un'idea completamente diversa, perché blinderà la Celeste durante il mondiale, quindi figuriamoci, 1000 plotoni a protezione della Celeste, mentre la nazionale italiana non pagherà la federazione, no? No, mogli, amiche, amanti, harem, eccetera. Perché noi andiamo a fare i conti in tasca a tutti quanti, c'è tenuto a precisare che non sono spese della federazione, anzi praticamente farà lo stesso CT a cacciare di tasca sua. E fa questa scelta non tanto per far contenti i giocatori, o meglio, anche per quello, però dice che secondo lui un ritiro allargato alle famiglie può portare intanto serenità, perché quando ci sono i bambini di mezzo, secondo lui è una cosa che può far solo bene, ma soprattutto, e me l'ha detto davvero facendomi ricordare quello che è successo l'anno scorso nei ritiri di Spagna e Uruguay, mi ha detto, questa cosa serve assolutamente a stroncare tutti quelli che pensano di andare in Brasile e magari a farti una vacanza o qualcosa del genere. Il ritiro allargato, se qualcuno si fa delle strane idee, se le può levare dalla testa. Sì, ci sono, adesso, ci sono praticamente... Mentre... è successo a Spagna e Uruguay, a me... probabilmente adesso non sarebbe più cittadino. Sì, no, ma guarda, mentre Tabarez userà l'esercito per proteggere la Celeste, Prandelli userà le mogli e mi sembra una grande idea. Fabrizio Visenti, ti ringrazio. Complimenti per questa intervista. Grazie, ringrazio, Fabrizio. Ciao, ciao. Due ciao, ore da onesti e due per il malaffare, due ore da galli e mille da zanzare, due ore per l'inferno, due per cantare messa, per ritentare il gioco, perduta la scommessa. Due ore per decidere se prendere o lasciare e scoprire che non sempre. Le Gramaro mi piace, ma questa mi piace di più. Questa mia, questa due ore di tutti i convocati per voi, la canzone per me mi fa impazzire. 800 24 00 24, dobbiamo ancora leggere il migliore in campo oggi per inviare la maglietta gadget imperdibile per questa estate di mondiali. Nardi, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, il migliore in campo sarò io oggi. Benissimo, perfetto. Allora, lasci l'indirizzo, mi raccomando, spediamo subito. Esatto. Dica. Io sono un milanista non convinto quest'anno. Non convinto perché vedo la squadra molto spenta, no? E poi per quanto riguarda il Milan, che sta lottando per la Europa League, penso che squadre come il Milan non dovrebbe essere il traguardo dell'Europa, ma è da lì in poi, perché ultimamente vedo le squadre italiane che appena vanno in Europa League o in Champions cominciano a frenarsi un po'. Quindi il confronto con le squadre europee non è nello stesso livello che dovrebbe essere. Sì. Perché le squadre che hanno un nome come Milan, come non Inter, so, però, come Inter, però il nome non fa risultato, Nardi, però il nome non fa risultato da solo, così come non fanno risultato gli estratti conto da soli, perché altrimenti il City avrebbe vinto le ultime tre coppe dei campioni. Non basta, cioè il Milan è una squadra non competitiva in questo momento, in valore assoluto come qualità non è competitiva. Se poi mi dice deludente rispetto a quello che potevano essere le attese, va bene, sono successe un sacco di cose in questa stagione, però il nome da solo non basta per entrare nel GOAT europeo. Per la Juve, per esempio, abbiamo visto nella Champions la Juve che splende in campionato, però in Europa era quello che era. Sì, in Europa era quello che era, ha toppato il girone di Champions League, è stato a mio parere forse l'unico importante fallimento della gestione di Conte, perché questo, insomma, le aspettative erano un'altra cosa, no? Se poi tu mi dici esco ai quarti con il Bayern Monaco, ovviamente ci può stare, però non passare quel girone è stato un fallimento e non c'è un'altra parola per definirlo. Adesso c'è questa seconda chance, la busta numero 2, cioè quella dell'Europa League, che ovviamente è molto meno premiante della prima, però io continuo a pensare, e l'ho già detto un sacco di volte, che sia necessario per la Juventus darsi una dimensione europea e che questa Coppa sia di un'importanza totale per la Juventus e per il suo allenatore. Alessandro, buongiorno. Rimini. Sì, salve. Com'è il tempo da quelle parti? Si va già al mare? Sono in viaggio, va bene. Sì. Senta, volevo intervenire su Verratti. Secondo me, sono sicuro che Prandelli ogni tanto si nasconda dietro delle piccole bugie, perché qualche mese fa disse: ma Verratti non è titolare. Non è vero. Adesso è titolare, gioca il ruolo di Pirlo. E poi ha i capelli troppo lunghi o troppo corti. Sì. Il ruolo di Pirlo non è vero, perché quest'anno ha giocato tutta la stagione da mezzala, ogni tanto chiaramente quando si sgancia qualche giocatore rimane a coprire, ma non è vero, insomma, quello che dice Prandelli. Sì. No, ha ragione, ma io condivido. A me sembra abbastanza una giustificazione abbastanza pretestuosa per non convocare un giocatore in un reparto in cui abbiamo un sacco di bisogno di qualità, perché è vero c'è Pirlo, ma insomma magari ci vorrebbe anche qualcos'altro. Quindi mi sembra un'argomentazione abbastanza pretestuosa. Possiamo pensare che ci siano altre argomentazioni, ovviamente non sappiamo quali siano queste altre motivazioni, perché Prandelli non le dice in questo caso. Tutti convocati. Allora, io non credo che ci sia il veto, come scrive un ascoltatore via SMS, il veto di Pirlo su Verratti, ma a parte il fatto che bastano sta storia dei giocatori che mettono il veto, perché e c'era il veto dei senatori per Cassano, e c'è il veto su questo e su quell'altro, e su Balotelli magari ci sarà anche qualche altro veto, ma basta, cioè, le squadre, cioè il CT prende 1,7, 1,5, quel che dirà, chiamerà il suo contratto, per fare delle scelte che non competono i giocatori. Questo però vale è un discorso che vale in assoluto. Nello specifico non credo che su Verratti ci possa essere il veto di Pirlo, come scrive l'ascoltatore. Informatevi, no, ci informiamo, caro ascoltatore, non risulta che ci sia il veto di Pirlo, ma perché Pirlo dovrebbe mettere un veto sulla convocazione di Verratti? Cioè, è il giocatore più importante di questa nazionale, è l'unico indiscutibile di questa nazionale, sempre che riesca almeno a camminare. Cioè, se c'è un giocatore che Prandelli non toglierà mai, sarà Andrea Pirlo. Dunque non capisco perché Pirlo dovrebbe mettere un veto sulla convocazione di un altro giocatore, a meno che non ci siano altre questioni che non sono tecniche ma sono di altra natura, e questo naturalmente non possiamo saperlo con certezza perché non ce lo dicono. Giuseppe da Pavia, buongiorno, ricordo 800 24 00 24, aspettiamo vostri illuminati interventi prima di vestirvi di nuovo come Valentino. Dica Giuseppe. Io volevo fare una considerazione per quanto riguarda domenica. Sì, ho visto la partita dell'Inter, io sono juventino. Sì. Ho visto che durante il riscaldamento il pubblico genovese insultava in un modo pazzesco i Icardi. Sì. Ma se fosse stato di colore, cosa sarebbe successo? Oh mio Dio, se fosse stato di colore sarebbe successa la stessa cosa, a meno che non avessero preso di mira per correre la sua pelle, cioè non... mi sembrano due cose diverse. Non so se la domanda è pertinente, vostro onore. Non mi risulta ci siano stati insulti a sfondo razziale, poi lì in mezzo ovviamente ce n'è per tutti i gusti, però ci sono un discorso un po' scivoloso, però ci sono giocatori di colore che vengono qualche volta insultati senza ricorrere ad insulti a sfondo razziale. Semplicemente questo, cioè non so cosa sarebbe successo se fosse stato di colore. Intanto sto raccogliendo, attenzione, dei messaggi non così positivi sulla canzone dei Negramaro. C'è Matteo da Milano che scrive: se posso sottolineo, mi disappunto per la sigla mondiale, i seppur simpatici e a detta del mercato bravissimi Negramaro sfornano una cover pompata nell'affettazione e spompata in freschezza. Mi auguro che la squadra non ci proponga una cover di Brasile 50, e questo ce lo auguriamo tutti. Poi c'è anche un altro ascoltatore da Fidenza a cui non piacciono i Negramaro, ma è solo questione di gusti, perché rappresenta, dovrebbe essere più adrenalinica, invece ha un effetto, scrive l'ascoltatore, sedativo, mieloso, pacifico. Queste le sue parole. Nunzio, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. No, io volevo ritornare sul tema, diciamo, dei mondiali, le formazioni. Sono uno dei CT, diciamo, in commercio, quelli gli italiani che fanno i CT. Sì. No, vedo diciamo un parallelismo con le squadre che sono in semifinale in Champions League e l'eventuale nostra condizione ai mondiali. E vedo, diciamo, che noi non abbiamo grandissimi campioni. Cioè, se mettiamo, diciamo, singolarmente, le altre nazionali sono molto, molto più quotate di noi, e vedo questo Atletico Madrid che non dà fiato a nessuno, cioè, nel senso, arriva sempre prima su ogni palla. Perciò io credo che la condizione fisica sia il primo diciamo, compito della nostra nazionale. Se noi arriviamo con una grande condizione fisica potremmo ottenere qualche risultato, se no credo credo che torneremo presto a casa, questo è il mio punto di vista. Beh, condizione fisica fondamentale, si lavorerà molto su quello, anche sì, abbiamo sentito e letto da tutte le parti con la tecnologia, no? Con i ritrovati della scienza in questo campo, dai giubbotti refrigeranti, perché c'è il problema del caldo, alla sauna con il freddo, insomma mille cose che ci porteremo dietro. È chiaro che la condizione fisica è fondamentale, però in una competizione che brucia tutti in un mese come il mondiale, conteranno molto altri fattori, cioè conteranno molto competizioni così, fatalmente le stelle, il fatto di essere, e a questo mi riferisco quando parlo di destro, ma dello stesso Immobile, di essere giocatori reduci quantomeno da un'ultima parte della stagione con un grande abbrivio, e quindi queste sono cose molto importanti. Poi non userei come tanto come parametro quello che è evidente, che Prandelli ha già denunciato, cioè il fatto che i nostri giocatori rispetto agli altri corrono di meno, hanno meno condizione fisica, atletica, eccetera. Questo secondo me è un frutto del nostro modo di giocare a calcio, e quando andiamo in Europa ce ne accorgiamo istantaneamente, perché le competizioni a livello internazionale sono molto più giocate dal punto di vista atletico, le interruzioni sono molto inferiori, sono molto meno lunghe come durata, ci sono meno pause, quindi si gioca molto di più a pallone, come direbbero gli amici del rugby, si giocano più fasi, mentre in Italia una, due fasi e poi fit, fischio dell'arbitro, tutti per terra, tutti intorno all'arbitro, e capannello, e comizi, e guardaline, e vai di qua e vai di là. È un gioco molto più frammentato e frammentario quello italiano. Io saluto e ringrazio dalla Cina Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, cui faccio sentire una voce che conosce molto bene, cioè quella di Montezemolo. A Domenicali sono mancati purtroppo i risultati negli ultimi due anni, malgrado lo abbia vinto da direttore sportivo 3 campionati del mondo, non roba da poco, e ne abbia persi altrettanti 3, di cui l'ultimo 2 anni fa all'ultima gara, sempre all'ultima gara. Purtroppo questa è la legge dello sport e la sua decisione da rispettare, perché ha anteposto gli interessi dell'azienda, quelli suoi personali, e le dimissioni in Italia sono una merce molto rara. Sì, che poi siano reali o pilotate, questo non lo dice Montezemolo, che dichiara anche, adesso torno io, adesso basta demandare, torno a occuparmi della Ferrari in pianta stabile. Io non sono affatto contento, essere contento è un eufemismo di come ho cominciato il mondiale. Torno un po' indietro negli anni, perché da questo momento lavorerò molto più all'interno della gestione sportiva, anche per aiutare l'inserimento di Mattiaci, che esordisce proprio tra 3 giorni in Cina e che rappresenta per lui qualcosa di nuovo. Allora, Flavio Vanetti da Shanghai, grazie innanzitutto per essere con noi. Flavio, ciao a tutti. Ciao. Buon pomeriggio nel vostro caso. Poi che ora è lì? Ricordiamolo? Attacca 6 ore, sono le 9.40. No, 9.40 e vabbè, c'ho ancora il fuso un po' da recuperare, visto che sono arrivato stamane. Devi andare a cena, insomma. Tra poco. No, devo scrivere purtroppo. Adesso mi dici cosa scriverai, cosa stai per scrivere. Però... No, facciamo un pezzo di collegamento tra il fatto avvenuto in questi giorni e il ritorno appunto in pista con la novità di un nuovo team principal alla Ferrari, ecco. Niente di particolarmente. Sì. Nuovo, ecco, via. Poi c'è Pat Fry, che è responsabile del telaio, che è uno degli indiziati principali di questo fallimento, che indica come obiettivo stagionale quello di riuscire a diventare la seconda forza. Sì, è un obiettivo, direi in questo momento abbastanza ambizioso, perché purtroppo le indicazioni non sono molto confortanti in questo senso. È chiaro che la corsa del Bahrain fa un po' storia a sé, anche per le caratteristiche del circuito, però c'è una, al di là della Mercedes, che in questo momento ha una leadership che è scritta appunto nei fatti e nelle vittorie, c'è una situazione molto fluida in cui diciamo che la ripulsione a ridosso della vetta si mescola con quelle del centrocampo e per certi aspetti anche un po' con quelle della coda, per cui si può veramente passare dal secondo al settimo posto nel senso di squadra in campo, come, come un ranking appunto di squadra in un attimo, quindi la reazione è assolutamente necessaria, però bisogna capire se ci sono già delle condizioni per poter ambire appunto a una riscossa in piena regola quest'anno, oppure se bisogna programmare un qualcosa di più a lungo respiro per il 2015. Le prossime gare ce lo spiegheranno in maniera più. Il problema è che alla Ferrari si continua a programmare il futuro, che però non diventa mai un presente accettabile. Questo è il refrain degli ultimi anni. Ha pagato per tutti l'allenatore, per usare un linguaggio calcistico, ha pagato per tutti l'allenatore, come spesso succede, ha pagato dopo la terza giornata di campionato, e questa è una notizia invece inedita. È arrivato in panchina un nuovo allenatore, cioè Mattiacci, sempre per continuare su questo filone. L'altro giorno ho detto, un po' come mettere in panchina il tuo commercialista. Ma sicuramente una persona che arriva da un mondo ferrarista, che è quello del, appunto dell'automotive, però è un mondo diverso da quello della Formula 1. Sicuramente, vista così da Tito, sembra un rischio, comunque una mossa che può presentare anche dei lati deboli, però potrebbe anche rivelarsi una mossa giusta, perché forse proprio gli occhi, chi non ha le mani in pasta in un settore come quello della Formula 1, possono aiutare magari più di quelli che invece sono abituati a vedere certe cose. Ripeto, è stato un po', l'abbiamo anche un po' scritto tutti, la vicenda di Briatore, quando si occupava insieme a Benettoni di tutt'altra cosa e si mise a seguire la Formula 1 e si dimostrò talmente bravo da lanciare Michael Schumacher prima, Fernando Alonso poi, a conquistare due titoli, più di due titoli, adesso non ricordo, se ne siamo quattro se non erro, due con la Benettoni, forse due con la Red Bull, non ero sicuro, comunque dei titoli mondiali, ripeto, in un mondo che non era quello da cui lui era partito, quindi diciamo che i precedenti ci sono. Lo stesso Chris Horner, tutto sommato, viene da un mondo che non è strettamente quello della pista, pur essendo stato lui un pilota, ancorché di non sì, si è scelta, comunque si è fatta una scelta di così creativa, mettiamola in questo modo, piuttosto che una scelta che sarebbe stata più conservativa, più sicura e certamente più costosa. Se ne era parlato con Ross Brawn, però costava troppo, c'erano altri problemi, eccetera. Quella sarebbe stata, avrebbe fornito qualche garanzia in più. Senti Flavio, un'ultima cosa, grazie a te e al tuo corsivo di oggi sul Corriere della Sera, ho scoperto che Domenicali ha giocato in Serie B a basket, questa non la sapevo. Sì, ha giocato, ma poi lui è stato, mi sembra, se non erro, durante il periodo militare, compagno di squadra di Pillastrini, comunque. Davvero? Ha grandi conoscenze nel mondo del basket, è amico personale di Ersi Buford, il manager di San Antonio Spurs, è amico di Ettore Messini, Simone Pianigiani, insomma di tanti allenatori, e ha la pallacanestro ancora nel sangue. Noi abbiamo lanciato oggi la provocazione, che è stato obiettivamente anche condivisa da un collega di Torino, Piero Guerini, tutto sì. Sport, che conosce a sua volta bene Stefano, perché anche lui frequenta la Formula 1 oltre che i canestri, e l'idea è proprio quella di segnalarlo al basket, visto che sì. C'è bisogno di persone con qualità, di buoni dirigenti e anche di gente che ha appunto la passione per la pallacanestro. A me sembra la classica idea meravigliosa, ma forse troppo evoluta per la Valle degli Orti, e non faccio pubblicità occulta, che è lo sport italiano. Aspettiamo, magari succederà qualcosa, vediamo. Io non so, non è escluso che ci siano delle sorprese. Che ci siano degli sviluppi, speriamo davvero. Grazie Flavio, buon lavoro laggiù in Cina, Buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Tutti convocati. Sabela, no podés ser tan notario. Te olvidaste de Carlitos. Tanto tiempo, tantos años. Presiento que si te ves al espejo, mucho te has de lamentar haberlo dejado lejos. falsa vela, un poco lo has de extrañar. Y cuando pegues la vuelta, arrepentido estarás. Presiento, no quisiste olvidar. Noi abbiamo in Negramaro, ma in Argentina sta spopolando questa di Daniel Ursini. Avete sentito, capito, spero, certamente intuito. Si tratta di una ballata contro Saveia, CT della nazionale argentina, perché non come noi abbiamo Verratti, loro hanno Carlitos Tevez. E Saveia non lo vuole. Noi avremo Verratti, ma alla fine avremo anche qualcun altro, cioè Insigne o Immobile o Destro o qualcuno di questi che resterà fuori tra urla e strepiti di qualcun altro. E loro hanno Tevez, che al mondiale non ci va. Il motivo non è chiaro, non è chiarissimo, è ufficioso. Anche in questo caso c'entra qualcosa il veto, perché pare che Messi non gradisca. Matteo da Como, preferisci Negramaro o Daniel Ursini? Ma a me Negramaro piacciono parecchio. Diciamo che anche questa non è male. Ballata così triste. Questa, sì, triste, poi soprattutto se l'Argentina non vince, vai, schizzi in testa le parade argentine. Mm. Assolutamente. Con Tevez, che però non l'ascolterà, se riuscirà a non passare l'Argentina, perché penso che a quel punto festeggi anche. Lei dice. Ma sai che penso anch'io, perché alla fine possiamo fare i moralisti finché vogliamo, ma se non va Carlitos su questo mondiale, che fatalmente anche per ragioni anagrafiche è l'ultima chance, è l'ultimo e forse sarebbe quello dove riuscirebbe ad andare più in forma rispetto agli altri. Bravissimo. Più maturo, più consapevole di se stesso, e magari anche facciamo le corna con un'Europa League sulle spalle, di cui in parte merito anche suo, magari non per i gol ma per i movimenti che ha fatto e le difese che ha aperto. Sì, questo è la seconda parte, è l'augurio del tifoso. La prima parte, invece mi sembra una considerazione oggettiva, al di là dell'adrenalina che Tevez potrebbe portarsi ai mondiali per i successi ottenuti con la Juventus, vari ed eventuali. È vero, cioè è il momento secondo me più adatto per Tevez nella sua storia calcistica, il momento in cui arriverebbe comunque al mondiale da capocannoniere del campionato italiano o dintorni, e comunque da una stagione giocata da assoluto protagonista, da assoluto numero uno, senza discussioni, senza essere messo in ballottaggio con nessuno. Adesso che ha tutto questo, ai mondiali non ci va, e noi risentiremo, credo per lungo tempo, da qui al 14 di luglio, la canzone di Saveia, su Saveia di Daniel Ursini. Maurizio Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo allacciarmi al discorso fatto un poc'anzi inerente al discorso di cambio di allenatore dalla Ferrari. E proprio questo cambio di allenatore che mi lascia un po' così perplesso, in che senso? Questa mattina, così cito l'articolo un po' a memoria di quello che ho letto, dove Montezemolo dichiara che ha scelto Menicacci proprio perché è un bravo manager, piuttosto che prendere uno dei tanti mercenari della Formula 1 che passano da un team all'altro. Mi sembra una dichiarazione un po' pesante. Si è già insabbiato un paio di volte Montezemolo e ha fatto il giro di YouTube. Questa volta sì, mi sembra che si sia insabbiato abbastanza bene. Lei dice, vabbè, difendere le sue scelte, questo è legittimo, no? I mercenari a cui si riferisce sono anche quelli che hanno fatto vincere la Ferrari gli ultimi titoli, no? Mi pare, perché può essere chiamato mercenario anche Todd, che adesso fa tutto un altro mestiere, anche Ross Brawn e anche queste figure che comunque hanno, magari saranno anche mercenari, ma quel mondo lo conoscono molto bene. È per questo che mi lascia perplesso, anche se qualche ascoltatore fa notare che, lo dicevo anche prima, Vanetti, Briatore non sapeva nulla di auto ma ha vinto 7 mondiali, un bravo manager gestisce banane e navi alla stessa maniera, va bene, però l'ambiente delle corse dello sport è un altro mestiere, un'altra professione, serve un altro tipo di sensibilità. Poi è chiaro, succede che un manager che faceva dell'altro come Briatore hai un talento particolare anche nella scelta dei piloti. Ci auguriamo che Marco Mattiacci ce l'abbia. Non abbiamo però evidenze per dire che possiede questo tipo di competenze, anche perché fin qui ha fatto al massimo livello, ma tutt'altro mestiere in tutt'altro settore, all'interno della Ferrari ovviamente. Siamo all'assegnazione della maglietta? Siamo al momento giornaliero dell'assegnazione della maglietta speciale di tutti i convocati. Migliore in campo di oggi è... Sentiamo. Nunzio, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. No, io volevo ritornare sul tema, diciamo, dei mondiali, delle formazioni. Sono uno dei CT, diciamo, in commercio, quelli gli italiani che fanno i CT. Sì. No, vedo diciamo, un parallelismo con le squadre che sono in semifinale in Champions League e l'eventuale nostra condizione ai mondiali. Perciò io credo che la condizione fisica sia il primo diciamo, compito della nostra nazionale. Se noi arriviamo con una grande condizione fisica potremmo ottenere qualche risultato, se no credo che torneremo presto a casa. Questo è il mio punto di vista. Dunque, annuncio la maglietta di tutti i convocati per quanto riguarda la puntata di oggi. Per quanto riguarda quella di domani, ovviamente ne parleremo dalle 14 alle 16 anche domani. Ringrazio Franco Piantaneda, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Noto che la gente, il popolo degli SMS si divide quasi al 50% tra i fautori dell'inno di Negramaro e quelli cui invece questo non va giù. Ce n'era qualcuno anche particolarmente cattivo, anzi magari se lo trovo ve lo leggo, quasi se lo trovo ve lo leggo. Non lo trovo più. Qualcuno avrebbe voluto gli ACDC. Qualcun altro dice che la canzone di Daniele Orsini è un mortorio. Non è vero, perché il testo è meraviglioso e ve la faremo riascoltare, lo prometto. Va bene, ciao a tutti, ci sentiamo domani.